A Sanremo non ha fatto il suo travaglio così. Infatti la vedo più veloce così. E poi l'ho usata lui per prima volta, la salutatrice mia, Natalie. Piccolina rosa tipo Valleggetta, ma dogami, è bella, nuova, perfetta. Lascio con parlare e poi sono a baci. E che per l'occasione che si aveva Franco lo scesa. Io ce l'avevo la saldatrice Tilvin in campagna. Era Tilvin quella che avevo io, era poco bella io. No, questa è bella, nuova. Tipo Valleggetta, toga, rossa. Franco. Ho provato l'alimentatore, l'ho provato con una ventola e funziona. La ventola 12 volts? Sì, una ventola 12 volts e va. E perché baracchino? Secondo me non ce la fa con l'amperaggio, c'è qualche cosa che è partita negli amperi. Che poter dire, secondo me, il finale di protezione. Il finale di protezione? Il finale di protezione c'è all'interno, non vuole essere NC che se ne va ai vivi. Capito, secondo me che è partito qualcuno di qui, non pure qualche dio d'ozena che ha fatto. Sarà il dio d'ozena sicuramente, fra. Qualche dio d'ozena che ha fatto qui. Perché l'alimentatore, la ventola di funzione che non vale su non ampera, sai. Quando metti il baracchino chiaramente assorbe di più e non ce la fa. Poi è pericoloso, non è attaccare i baracchini che se si sono bruciati quei 2N30-55 da più che coso e ti brucia tutto. Il vostro Natali sono 13, ti ho controllato. 13 volts. Allora non sono i finali che sono bruciati. Qualche dio dov'è? Già, col test è provato. Allora, detto che il test l'ho dimenticato acceso e la batteria si è scaricata ed è particolare, non io dico le batterie, sono quelle piccole da 12 volts. Ho capito che c'è la batteria scarica, ma tu poco fa, adesso hai detto 13,8 quant'è? Cioè, ho detto, niente strano che mi ho procurato l'otto test. Ho fatto la batteria, No, lo segna lo strumento, lì forse lo segna gli strumenti, no? E un altro baracchino, non ce la fa? Non ce la fa accendere, no, l'ho provato, non ce la fa accendere nemmeno la luce dello switcher. Non sta dando ampere. Io cosa ho detto? L'amperaggio deve essere. E c'è sempre il dubbio. Franco, ragazzo caffè se mi dici. Chi è che stava chiamando? Franco, dove sei? Mi ero a spegnere il caffè. Stavo parlando della mia sudatrice. Bella, piccolina, nuova, adesso che è bella. Salda bene anche una sudatrice, di lusso. Tu l'hai sverginata a me, era dentro la scatola, nuova, mai usata. Salda benissimo quella sudatrice, non bene, di più. Sì, ma come ne fare, come hai detto tutto qui, tagliarne, si taglia la piastra che c'è lì con la moletta e si ricostruisce. Fai molto prima, li fai già i fuori, gettati, boh. Sì, è lui che è quella lì, fra, e fai in fretta. È un lavoro ben fatto e costa. Se no, cazzo, bucare, togliere quello è un casino. Tu già l'hai vista com'è. Ci sono alcune vite che non mollano, bisogna tutta tra banali, metto le aggravi. Infatti, io stavo passando proprio, ho provato a svitare le viti, ne esce una o due, basta, là ci sono morte, secche. Quindi l'ho rimessa a posto, tu non ne volevo sapere. Però no, non dici, la gabbi lì. È tutto a marcio, quella come vi sai con la piazza che ho costruito io. È tutto frate, corretto, tutto. Non era tutto che rimane in mano, è tutto a marcio. Bisogna per forza tagliare e ricostruire tutta la carcassa lì. Scatto un attimo al telefono. Ehi, vai Gianni. Ehi, sono un po' bugliato oggi. E vabbè. Adesso vediamo, lo possiamo aggiustare. Cazzo, con l'alimentatore la ho dato una. Cazzo di arma, una cosa incredibile. Ci vuoi fare. Prova a aprirlo se ci sia qualche promesso di staccato lì dentro. Che a volte si risaldano i fili pure. Prova a vedere, magari se vi dà anche più staccato. Almeno fosse quello. Adesso lo riprovo, magari entrato in protezione, quella rimasta qui entrano in protezione, quando ci sono pericoli entrano in protezione, poi si riprendono, buh. Questo che ho io è un muletto, qui sono andato in grusso, un muletto, Chi è la gara? Vai Natalino, gatta! Ehi, io... conosce sta quello che voglio. E io mi faccio consigliare, lei mi viene... L'altro l'ho prestato a Adriano, se no gliel'avrei prestato a Gianni. Ah, io ci vado. No, ma già ce l'ho, Natali, solo che tutti gli apparati sono attaccati con l'alimentatore, capito? soltanto a cattivie, è troppo pieno di roba. E vabbè, ma non lo sfruttano, perché se non sono in trasmissione cosa hanno di assorbimento? Niente. No, quello no. Sì, quello lo so. No, vabbè, dai. Vediamo un po'. E infatti. Grazie, grazie. Quindi. Buonasera. Ripartiamo. Gli stacchi, gli apparati e vedi un po' cosa può essere successo. A mettere il centro con la spina attaccata. Ma cosa vuoi che ti dica io, Natale? Antonino! Mio, dimmi! Oh già, ha detto, non lo accendi quello là. Quale? No, oh, Antonino sto dicendo. C'è invece allontanato. Toni! C'è qualcuno sul 10 l'ascolto? C'è la ruota, sì, ciao Sammy. Buonasera a tutti, scusate, ho appena acceso, non ho fatto ascolto, scusate, sperando che mi ascolti doppio room. Ehi, Salvedio, ciao, buonasera, dai, scusa che stavo ascoltando un messaggio vocale. Buonasera Gianni, buon ascoltato. Ciao Salvedio, buonasera. Il radio, Salvedio. Cosa vuoi dica? Se abbassi la finestra, così non sento la voce dalla finestra. Ciao Salvedio, a me come mi senti? Forte e chiaro. Chi è Natalino, chi è? No, Tonino. Oh, ciao Tonino, buonasera. Buonasera Tonino. Qua io ho coordinate in zona di casa tua, dai già. Ti avevo capito. Non so com'è il segnale, bro. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gianni, doppio room, ascolti l'anima c'ha lunga, cambio. Ma sei proprio sotto, perché qua è tutto fondo scarto. No, non sono sotto sotto. È sopra sopra. Sopra il tetto sono, a fianco alla tenda tuya. Vai dimmi, che se no ti scoppia tutto. Oh, che sapevi, sto usando lo sciure. A Cintelli, microfonia di un tempo, americana. Scappa. Si sente, tranquillo. Tutto va a parroggero. A me col baracchino di Vandamarchi lasci il pacchetto di sigarette, come vi ascoltate. Sì, perfetto qua. Dittivo, sento anche appena di preparazione sotto, siamo alla ricezione in cantina, Giulia. Sì, quasi 9.30, l'ora di 5 ultima. A parroggero, sempre con due vattini, Se ti rimetto un giocattolino con questa antenna, metto il Jackson, escono le matracche. Adesso c'è da 4 watt, adesso tutti i watt le baracchine sto scendo. Adesso però rilasso perché non mi va usare tanti watt, siamo a Sassari, quindi già ci sentiamo. A parroggio, la voglia, positivo. Chi altro c'è Gianni? C'è da Franco e Natalino. Natali. Sì, Nara, Salvini. No, Salvini sono io. Buonasera Natalino, ben ascoltato. Ciao Salvi, sto mangiando. Mangia, mangia. Ma mi sentite a me, dalla zona di Oristano, cambio. Intendimi, me a Franco qui, e ben fra, buonasera, sperando che mi ascolti qua. C'è 9.30, è ovvio. Sto occupato il Jenny con un portatile, l'antenna di gomma e ho la batteria del motorino, quella 12 volt, dentro il marsupio. Passeggiando a marciapiede. E se è forte qua. La gente deve appuccare l'eva. Non ci arrivi. Sto aspettando a Muzzere. Io la batteria si è scaricata per le luci al quarzo che ho sopra la radio. Già ne ho tante nuove, dopo gliela cambio. E poi anche abbassare appena l'amplificazione, perché tende appena un po' a rimbombare. È troppo forte. Aspetta. Adesso è un quarzo. È un bel fossile, un bel. Lo so, questo è forte. Non ti ne pigliate un cusciuato? Una persona l'ha dato. A Roggero. Amplifica bene, è bello. Una bomba, Anche l'altro microfono esce forte. Che potenze parole, difficile da te. Sì, lo so, questo è forte proprio. Sto vendendo un Turner più 3 originale americano, chi se lo compra? Sei l'asta. Aiù, chi se lo compra? Mettilo su internet e lo vendi subito. Ah, guarda, il microfono è giù droppi. E da voi tratto sempre di ghiccio. E pure io. Adesso sono a corto di alimentatore. Salve, alimentatori neanche. Sei pieno di alimentatori tu. E lo so, ma me ne hai partito uno, quello da 50 ampere. Ma quello... Quello che era proprio del... Che non c'erano manco gli strumenti, quello del computer. No, quello da 50 ampere, quello grande boxer. E cosa è successo? Accendere, ma non riesce a accendere gli apparati. Ho provato una ventola perché il tester c'era la batteria scarica. Ho provato con una ventola e la accende, mentre invece gli apparati non ce la fa accendere. E se la partita qualche finale. Savi, sto usando adesso un altro microfono, com'è? Perché questo è buono. E questo è l'M4. E io c'ho più 5, c'ho quello che ho a casa. E già funziona bene anche questo. Ma non è forte come lo Shure però. Ma è forte anche questo, non è che è debole. E vabbè, quello è più potente perché me lo sento anche in cuffia forte. La parrogero, adesso io devo vedere di mettere qualche vattino qua in macchina, fare qualche collegamento. Da qua, visto che questa antenna c'è un sacco di ricezione, sentendo la propagazione, pure l'inverno, cazzo, allucinante. Una bombetta di antenna, beh già tu metti trovi. Vedi, questo è tutto diverso. È più amplificato rimane più amplificato. Però è forte anche l'altro. E qua sono metà appena. Si aumenta, guarda, 1, 2, 3, prova di modulazione. Troppo forte. Da. Franco! Attento, Franco Califano! Tatalina sta mangiando, lo carica. Ho già mangiato, dai, no problem. Non è che fischi, avanti. Beo giù, beo. Luia. Aspetta un attimino. Fa gara. La modulazione è questa qua, forte la radio. Devo abbassarla, devo alzarla. C'è un po' di alternata sotto. Sei cantato. Tanto non mi bruci, vai a chi, non vai. C'è l'alternata sotto. Faccio la protezione, hai compreso. Vabbè, questa alternata, adesso c'è. Lascia la portata silenziosa. Perché c'era il microfono troppo vicino. C'è Gianni. Dimmi se così c'è. Adesso no. Il microfono troppo vicino, aspetta. Oh, se l'avvicino anch'io, mi. Mi innesca la propagata da Rachino. Ma il microfono è diverso. Franco, sparito. Salve. Dimmi tu lì. Riprenditela tutta. Io già me la riprendo, ascoltando visto. Quello che si tiene a museo, che puoi mandicare. Guarda così, guarda. Che bello, lo so video. Tutte le calecca. Beh già, e quindi? Con l'alimentatore? L'ho messo da una parte. E mi sono fatto guardare cos'è il componente. Lo prendo uguale, la fusaro, e te lo piazzi. Non penso che ci vuole un maestro per cambiare un diodo, cos'è? Questo è un finale ottimo di manica. E anche quello bisogna saperlo fare, tu. Niente, c'è Franco, non lo so. O chi troppo fare, non lo so. Io non le metto mani perché non lo so fare e non le posso. In pericolo c'è che voi fai da più danno. No, ma se lo fa, lo fa qualcuno che lo sa fare, no, se non me la butto io a farlo. Oh, niente, io sono andato comunque in baracchino, 10 metri a radio, che ha stessi canali del Galaxy. Sta pagato. Ma già va bene, forse. 1, 2, 3, 4, 5, naccio, bacia. Qualche due lo faccio fuori. Mi devo fare un altro spezzone per andare bene. Pronti! Avanti! E stiamo un po' in verticale qua, Luca. Cappa, sempre quelle zone sì. Sì, sono fermo qua ai coordinate di Gianni. Sto aspettando che esca, devo a comprare qualcosa. Natalino? È Franco cosa dice? Franco! Cosa si mano e tendi? È sparito. No, sto facendo una cosa un attimo qua. Riprendo subito. Riprendi tu. Ecco, si può forse oggi. Tutti forti siete, gatti, Natalì, riprendi. Va forte, va forte, invece abbiamo tutti combatti, no? L'amore. Sei forte, Franco. Nero, 2 watt. Sei forte, Franco. Mettendo i tutti. Io sono fuori di Sassari. Io sono lontano. Io sono con l'antenna incartata nel terreno, piccolina. Vabbè, io controllo il segnale con le musulane, ma siete arrivati uno più forte di là, siete tutta malettone. Oh, sono uscito a 4 watt io. E io 2, ho attaccato lo strumento l'altro giorno, stazionarie 1 e 2, watt in uscita 2 watt. No, io non le controllati però. Sono molto basso, ho tutto abbassato i watt qua, sono a 0 proprio, quindi sono usciti 4 watt. No, questo qua è un portatile, è un LAN 38, te lo ricordi l'LAN 38? due volte da non è che aspetta, ho il tasto io qui. Adesso io abbasso il tasto, vediamo se dovresti sentirmi molto più basso, perché va a meno di un watt. Prova. Per avere il risparmio delle batterie, capito? Adesso meno di un watt. Si è abbassato, infatti, si vede, 9-10. Gianni. Ehi Antonio, ti ho mandato una cosa, guardala. Aspetta. Quanto è che sono abbassato? Abbassato? Ho messo adesso in posizione 9. Posizione 9 dovrebbe essere più basso. Quanto è il segnale della tettoria che c'è più lontano? A te Gianni, penso che non ci sia differenza. Anche se metto il 9. Sì che c'è. Arrivi, prima mi arrivavi sul DB, adesso non ci arrivi più sul DB. Beh, adesso non c'è neanche un watt, capito? Invece c'è altro watt. Prova. Non stavo guardando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola. Così arrivi sul DB. Ti ho mandato un messaggio. A chi? A Gianni. Tony, quando abbasso il tasto quanto ti arrivo? Allora, prova. Allora, questo qua è il passaggio in alto, diciamo quello a 2 watt. Poi adesso aspetta che abbasso adesso. Adesso questo qua è il passaggio invece col tasto basso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Allora, il primo passaggio a 9,25, 9,26, non di più. Secondo passaggio sei sceso a 9,10. Quindi la differenza di accede, dai. Dove sei arrivato, Salvi? Oppala, oppala, oppala. Ho detto dove sei arrivato. Ma mi ascolti, sì. Gianni, io sono sempre parcheggiato, capito? Sono parcheggiato. Gianni, Franco, non sono Gianni. Ho sbagliato, mi sono confuso, là, Franco, volevo dire. Sono la stessa di due, la mia. Adesso mi sono messo, mi è uscita a Family. Anche lì arrivo. Anche qui arrivi, anche con Baracchino Spento arrivi. Un attimo, mi carico la spesa. Vai, fai. Tranquillo. È Tonino, Tonino. Eccomi. Cara gara. Mi ha chiamato Raimondo, non l'ho sentito il telefono, ce lo chiamo un attimo per usare voi. Chiamo, ce l'ho stamattina io con mio fratello. Ragazzi, mi ha chiamato alle 2:30, che dura di più. Cosa? Mi ha chiamato alle 2:30, a Tonino. Icca e tetta. Siccome io qui mi sono caricato, il telefono l'ho messo fuori in cucina, stava caricando, Allora, di uscio. Ecco. Andò bene, Gianni. Ti ho mandato un altro messaggio e non mi hai risposto. Non lo stavo guardando, Tony. Sapete, attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Abbassa le voci. Io sto parlando e mi sto ascoltando con la pappariccia. No, le istruzioni non ci sono. Ma più o meno è come 140 con quelli lì. Sì, vabbè, però c'è qualcosa in più. Andò bene, ho sentito anche binario 10. Siamo ripartiti, siamo partiti. Attenzione, Savinio, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Io non vedo né bianca né gialla di linea. Attenzione, Salvinio. Sei a soccattento, Luigi. Guardiamo tutti i binari, tutti. Cosa ti stai svoltando il negozio? No, a posto, comprare un paio di cose, tutto fatto. Speri poco, che là sono ladri, ti mangiano tutti i soldini, gà. Ah, vai, si risparmia lì. Lo sai già, dai caro, che lì, dai. Io stasera sono uscito, ho preso di nuovo 3 di quelle bottiglie, quel vino che ho chiamato l'etichetta. È un po' che buono, gà. Stai alcolizzando, ti stai, boh. No, perché siccome va a ruba quel vino, poi non lo trovo più. Allora ne avevo 3 bottiglie, ma mi durano bene perché 2 le conservate e 1 è frigo per stasera, ma aspetta, ne bevo goccettino e basta mangiando. E anche io, quello frizzante mi piace a me, capito? Mi piace quello frizzante. Questo è frizzante, dolce, buono. Io lo bevo bevendomi, non lo bevo mangiando. Va. Allora tu come me, sì, come me. Io non bevo vino, bevo birra. No, a me birra non piace. A me mi piace più la birra. Che io, birra fresca, buona, della tua io tempo fa, anni fa, avevo un po' di birra malattere che mi piaceva, l'altra non mi piaceva. È buona la birra, sempre d'estate, poi è una favola. No, basta con la birra rossa, non mi piace. Mi piace il vino, quello è buono, troppo buono, altro che l'ambrusco, le fa 10 a 0. Oia, oia. Ecco qua, qua, qua, oh, oh. Attenzione, Tonino Kawasaki, se ascolti il doppio rum che chiama, cambia! Cava, il doppio rum, il doppio whisky, cambia! Wow, wow, wow, wow! Brulla, brulla, brulla, la, chica, bu, bu, bu! Savilio! Sotto casa, so! Sotto casa mi sto gonfiando, sto trattando la pompa elettrica di dare una gonfiata al gommone. Ma lo senti lo spagnolo, eh? Adesso no, perché sono meglio preparati. Se mi sposto la macchina di due parti. C'era uno spagnolito, basso basso, se tiego 4-5. Qua sei sempre forte, Savilio. Sono sotto casa. Sotto casa davanti al gommone. Non serviti qua. Ma aspetta, faccio una retromarcia, guarda, eh. Adesso sono fuori dal palazzo, guarda se è migliorato, 1-2-3, 1-2-3. 9-25. Qua c'è 9-40. Giuro, salve. Siete due passi, dai. Andare, andare, dalla macchina, con due volte non si può pretendere di meglio. Sotto casa mia sono, a gommone. Ehi, lo stesso segnale di Tonino. Io sono a 4 watt, adesso ho messo 10-12 watt quando c'è il baracchino. 9-50. Ti arrivo? Va. Si è attaccolato di più. Prova. Aspetta che sta con la penna, metto lì. Attenzione Gianni. Fai di nuovo il passaggio. Aspetta. Va, 1, 2, 3, prova di modulation. Sì, 9,50 con questo. Addirittura, ma sono potenza. No, 9,60 al massimo. Ma ho detto, ma sono potenza io, vedi, così sono a metà, Gianni. Così sei 9,50. E beh, guarda la differenza adesso, sto aumentando piano piano. 1, 2, 3, così sono a manetta. Sì, a 9,50 con picchi a 9,60. No, vabbè, però se ti occupo, questa mia colonnina non mi è tenuta, io la tolgo ora. Io ce l'ho la colonnina che c'ha i filtri, si sente un babbè. Ma mi occupo la modulazione, non mi piace per quella questa colonnina. Questa è di luce. Dai, cambio un apparato, mi piace. Eccomi qua, attention, my friend. Gianni. Eia. E qui, qua ti sento chiaro in cuffie, anche a baracchino. Quella colonnina non mi piace tenuta, è cuppa la radio. Assui in ascolto. Aspetta l'attacco invece. Saverio, attenzione Franco. Comunque hai ragione che la colonna la fa leggermente più cupo, però c'ha il filtro e non ti fa sentire i rumori, capito? Lo so, ma a me non piace così, io sono abituato a sentirmelo chiaro, la modulazione. Toni alti, capito? I toni bassi non mi piace. Tutti spariti sono. Cosa Toni? Ho detto, sono tutti spariti. Qua sembri in casa, con questa colonnina sembri dentro casa. Addirittura. Ehi, a Franco. Ci sei, Saverio. E se sollevo il volume qua con me, ho già. Allora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Bella. Hai mai troppo forte però, dai. Allora, 1, 2, 3. È forte, è forte. È amplificata. Normale che sia forte. Hai te, propagation. No, mi piace questo microfono già, a parte scherzi, mi piace un po'. Sì, la battaglia, di quelli abbruttosi. Venga, dai, già è bello, dai. Sì, quando sono venuto con Franco, che avevo sciuro, c'è così forte, tocca, vado a procurare. Brava, brava. Oia. Anche oggi non me la battosta. Prima mi riesce a fare di tutti i rimbiati, mi si è rotta lo scolapiatti, Toni, mi si è fascia di rimbiati, bicchieri, di tutto. Si è rotto quel sostegno che c'è in plastica, me ne sono caduti tutti quanti. Sono peso, quello è legno, quello è plastica, le viti si sciarono prima o poi quando c'è molto peso, perché mi sono messo poca roba, capito? C'è un casino, ma i brutti ci sono. Io si sono spaccati. Adesso ne ho buscato altre due e le dovrò piazzare. Per il momento l'ho aggiustato così qui, li piazzo quando c'ho tempo. E altri due nuovi. che cosa? Di quei sostegni in plastica, gli altri, quelli di giugno, l'ho fatto in legno, capisci, non si faccia di più. Lo so. Dovessi mettere meno peso già, quelli fanno schifo tutte le parti, io li uso infatti. O li fa la modifica perché purtroppo sono deboli, loro metti molti piatti e chi la canzone, occasionalmente sono fatto quando sei scialato. Ci hanno rotto due piatti, bicchieri, perché sono caduti sopra, cioè è caduta quella di sopra, e sono caduti sulle altre cose, capito? Ecco, poi c'ho anche il ripiano per le gocce dell'acqua, capito? Per non cadere il lavandino, allora va in questo deposito e poi si asciuga piano piano. No, io lo faccio scolare nel lavandino. Ma c'è la gente lì a casa, come fa a non mettere molta roba? Se c'è la gente a casa, a pranzo. E quindi ho consumato più piatti, più bicchieri, insomma. Io quando faccio così, piatti in plastica, piglio il lampo via tutto, non li uso neanche gli altri piatti. Oh. Ma cucini nelle pentole, no, sempre. Calda, quello sì. Ecco, da là la pentola, la prelavata, la metto a scolare nel lavandino, nel piano, nel ripiano che c'è, capito? Che io praticamente ho messo quelle pentole delle BC che sono un bel pesante. Non devi mettere scolapiatti, quella scolapiatti mi chiede, ma basta, smettere il petro, l'MC pensa, le conosco, io ci ho lavorato con la rappresentante dell'MC, si chiama Alpha Metacraft Corporation, no già, e fin quando non pagavi tutte le petro non te le davo, e così volevo dire, quella petro è mano sul ripiano del lavandino, del lavello, là non si mette, è ovvio che si faccia tutto qua. Vabbè, eia, tu niente da devi fare, sono cose che non ci pensi, magari e a furia di stare, e dopo tutto quella cucina c'ha 25 anni, l'unica cosa che non ho cambiato di mobili, tutti gli altri li ho cambiati tranne la cucina, adesso dovrò cambiare anche quello. Vabbè, sì, quando non la cambi fateli in legno, con delle viti come si deve, ho viti passate, mica si vede tanto, e fa un bel lavoro, così sei più tranquillo. Purtroppo quella fare in plastica, cosa vuoi che ti mantenga, con delle viti piccoline. E infatti, ma poi la plastica si secca, capito, col peso poi, il tuo canto. Io ho due piatti gru in fondo e due piatti di in ceramica, e un po' di bicchieri, poi metto qualche caffettiera piccolina, e poi avevo 5 o 7 di quelli contenitori ma in plastica, leggerissimi, poi siccome a fastidio li ho tolti, li ho messo nel mobile perché non li sto usando, quelli se posso fare un'insalatina dentro e ci mangio, praticamente io ho comprato di quel mangiare pasta e fagioli, zuppa di farro eccetera, la scaldavo e me la mangiavo buona, che la vedo anche alla Conad. E i contenitori siccome è plastica dura, va anche nel microonde, però asciugati, lavati, come si deve, asciugati, conservati, mi servono. Qualcuno l'ho messo anche a bere il cane. Sì, infatti. No, io ho riso anche per far fare il bagno agli uccelli. Anche, sono buoni, sono belli. Bene, bene, da Gianni, 8:12, mi guardo il telegiornale e poi, boh, si vedrà. Se agiti più tardi ci sentiamo. Ciao, pazienza. Ok? Ciao, stavi bene, eventuali ascoltori. No, proseguo. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Tony, ci sentiamo, dai, buona serata e buona carica quando la fai. Avanti che è rimasto in ruota. Ok, ciao, ciao. C'è qualche altro in ruota? Sto facendo delle lezioni. Ho capito, ho capito. Stavo dicendo, ma tu la patente non te la abbi più? Ma io me l'ho ritirato, me ne sono andato, non c'avevo tempo, non c'ho tempo, non ce la faccio a studiare cavolo la roba. Bisogna essere tranquilli, senza troppi impegni, se no. Io vabbè adesso l'esame sono a novembre a Cagliari comunque. Ma tentano luce, mi sapete. Se fai quiz hai anche la possibilità di andare per esclusione, dai. A dopo che sto scendendo dalla vettura. Cava, va bene. vai pure. E beh, già risolto là la metà d'ora. No, non facciamo una parte, E cosa risulta? C'è qualcosa da cambiare, cosa risulta? Ma c'è, ma c'è un rumore strano sotto già, come mai? Fai il microfono, aspetta. Guarda, adesso ce lo fa, non c'è trifor. Adesso va bene, ma poco faccio che tipo di rumore alternato. Però se il microfono è vicino all'apparato deve essere far rientro. Vabbè, sicuramente sì. Come metto un cavo dal microfono all'apparecchio. Adesso quando c'è tempo lo faccio. Ah, magari, adesso ti faccio sentire questo di microfono, aspetta. Vabbè, questo è l'MC. Anche questo. No, questo qua è l'MC60, questo sto usando adesso. Adesso faccio sentire quando più 3, nell'altra volta. Cava. Va bene questo? Sì, va bene, ma l'MC60 è meglio, senza ombra di dubbio. Vabbè già, questa è da del più 3, con l'altra radio, capito. Hola, brutta è come radio questa. Non è brutta, va bene, cioè che piazza rimane, capito? Invece quella realtà del cable va meglio, rimane con più suoni bassi. Vabbè, ma quello lì deve essere radio pure da questa. Questa è una radio così, capito? Una radio da 13, no? Da 14 pure. Che radio è quella lì? Questo è il... aspetta, il Cobra è questo. Quello che c'è voi? Non è quello che c'è tu. Ma quello con tanti colori, che fa tanti colori. Cara di positivo, sì, gli ho adattato il Tanner più 3 qua. Ma te l'ha dato quella persona? Stavo negativo. Ah, ho capito. Di solito quegli apparati non spingono nulla. Io gli ho adattato questo microfono qua. Questo Tanner più 3 K. Boh. Sì, ma io me l'ho fatto fuori perché si muovevano sempre le lamelle, io stavo uscendo di testa, andai così, ti rompo le palle e poi alla fine ti scucci, là. Vabbè, è solo che mangiano le batterie, queste microfono. Oh! Ma, vabbè, questa non lo so, non l'ho misurata, però gliel'ho cambiata da poco. Il mio no, non consumava tante batterie. Vabbè, questo qua l'avevo misurato, era 5 volts, e gliel'ho cambiata, gliel'ho messa nuova, gli ho messo una dura, cioè. Anche perché quella che c'era era una batteria e non si via. Io. Adesso già va bene. Ma già va bene come radio, dai. C'ha tutto questo, Anche questa qui va bene, E vabbè, una radio così, Che andava bene. Anche la mia, una radio da 13. È giusto farle funzionare, se no è un casino. Adesso se non le fai funzionare, ti si rovinano. Infatti, no vabbè, quelle antiche, anche se lasciavi 10 anni senza fare funzionare, come mi ha detto Marco Condro l'altra volta, che ne aveva 10 anni ferma, e ha detto praticamente che l'accesa ha funzionato subito, senza dare problemi né niente. È un'antica, c'ho un Sommercamp, se tu lo vedi è nuovo, 23 canali. K. Addirittura c'è le manopole in alluminio, pensa tu. Lo sai quanto pesa la roba che vedrei? Ma neanche a paragone ai baracchini che fanno adesso. Eia, è perché i tempi del cavolo sono dei treni, sono casi, c'hanno 40 anni di vita. E infatti non ne fanno più radio così. Adesso queste radio stanno facendo adesso, si rovinano. Quando si spaccia qualche pezzo è un casino. Bisogna per forza mandarlo fuori. Perché qua non ce n'è gente che li fa vedere. Non so, adesso fanno tutto con l'economia, proprio per rompersi la roba, capito? E dopo ci vuole anche l'attrezzatura per fare quelle cose, non è così. Devi avere la lente, soldatori particolari, e non come quelli che rifanno i telefonini la stessa cosa, se non c'è attrezzatura è un casino. E certo che sì, lo so. Allora, poi ti ho pigliato troppo il caffè. Cazzo, tu diventi come furia. Ah, ma quando ne bevi troppi poi ti fa pesantezza, capito? No, io non ne bevo tanto caffè, io me ne faccio uno dopo pranzo, la mattina a colazione, bomba, non ne bevo altro. Infatti, la famiglia è verne molto, periodo stanno male, è uscito. Domani c'è altro tempo buono, dopo domani altro pioggia e poi giovedì pioggia lo stesso, mercoledì e giovedì pioggia, venerdì, sabato e domenica è bello comunque. Ci sono delle zone dell'Orese che sono tutte allagate, di nuovo un altro bifraggio della zona dell'Orese. Ma anche fuori ne ha fatto di danno, Giorgia. Hai visto il disastro che ha fatto, un casino. Sì, io ho mia figlia a Bologna, non lo so. Guarda, ero con i frizzi, stavo temendo che succedesse qualche cosa, uia. Tutto allagato, stavo guardando il televisore, no? Il telegiornale. Ho visto cazzo tutti i danni che ha fatto, case allagate, mobili, divani, di tutto e di più, per carità, ragazzi. Che disastro, poveracci. Cavagava. Chissà chi ripaga questa cosa qua adesso. Tutte queste persone che tutti questi danni. Oia. Andare fra. E cosa vuoi fare? Cosa ci vuoi fare? Niente. Che ci vuoi fare già? Purtroppo è un casino. Quando succedono queste cose, questa alluvione di acqua, bombe d'acqua, è un casino. Oia, oia. Io stamattina sono salita in Tireddu e stavo diluviando. Poi ha calmato, c'era il sole, poi stavo rientrando sulla CO 31 prima di Eurofine, come è stato a cavarsi una dalena. Poi è il tempo di cavolo e poi fa danno, perché non è che la fa gradatamente, se l'avesse fatto gradatamente nessuno avrebbe detto nulla, ma fa queste bombe d'acqua, ha caduto, riempie i fiumi, strarippano, fanno un casino vero. Ma allora una povera, certo che è stata la vita pagandoci il mutuo della casa, adesso che va a finire di pagarla, che si deve comprare tutti i mobili nuovi, tutto un casino, tutte le porte, tutto sfasciato. Buonasera. Ah, per carità. Buonasera, ciao Gabino, buonasera. Non sono Gabino. Tino, buonasera. Ciao Tino, c'è la tua colazione. Ciao Tino, buonasera, mi ascolti, sì. Ma che cavolo, ciao Frat. Ciao Gianni, anche a te. A voglia, a voglia. 9.10, 9.15. Vabbè, sto usando il baracchino della mutua con Tanner più 3. Sono distante almeno mezzo metro dal microfono, dai. A voglia, a voglia. C'è un'amplificazione anche troppa. Vabbè Gianni, anche tu hai cambiato apparato però, vero? Gianni, Gianni, ci deve essere allontanato qualche secondo. Sì, sì, sto utilizzando il Cobra, non so se lo conosci, quello che cambia i colori. Gli ho adattato praticamente un Tanner più 3, tutto lì. Ma quello digitale? Capo di positivo, sì. È una bella radio, anche a me piaceva, però non mi ha soddisfatto in prestazione, dai, diciamo. La stavo per prendere quella lì. Come prestazione? Non vanno bene perché? È un po' così per le modifiche, per aumentare la radio, l'amplificazione, questa roba qua. Non è una radio che, oddio, stia uscendo bene, chiaro, tutto quello che vuoi, però non è proprio amplificata come la gradirei io. Vabbè, io gli ho adattato questo del microfono, anche perché il microfono originale fa schifo. Non c'era niente di radio, non ce n'era proprio niente, capito? Quindi ho messo questa qua, il Tanner più 3. Ma io c'ho anche il 48 modificato qua. Forse esce meglio il 48 con il Tanner che quella radio lì, Ma si può entrare a salutare? Buonasera, dai. Ciao Tiro, ciao Franco, mi sembra. Ciao Massimo. Ben ascoltato per la prima dopo di tanto, anche io ero un po' assente, no? Ben ascoltato, non vi vedo il tuo segnale, radio super 5 buona. Non mi lascio vedere, sta a posto? Sì, tutto a posto, tutto in ordine. Sì, sì, va bene, fra. No, già vedo che sta funzionando tutta la grande, là. E adesso non può senza accendere. Stavo dicendo, ti, adesso proprio il 48, e vedi la differenza da questo al 48, Io credo che vada meglio, provalo, c'è problema. Ma ne è rientrato, sì. E tutti, tutto bene, sì. Sì, a voglia, quello che è bene, sì, si tira avanti, dai. Lavorando, rientrato solita ora, e adesso ho bocciato e 5 minuti alla radio, perché poi devo uscire a prendere al grande che sta giocando a pallone. Ah, ok, no, noi questo ieri, cioè oggi e domani fermi per il fango là. Ma ce l'ho immaginato. No, io oggi ho lavorato ed ero lì a corte, ha piovuto, però mi ha fatto lavorare lo stesso, Vabbè, stavo pulendo una vallata, diciamo, Stavo togliendo un po' di radici di lentischio e quant'altro. Modulazione dalla città di Sassari Scappa. Mi affranco, Papà, più grandi. Questo è il 48 KK e Scappa Capo. Vabbè, ma questo va da 45. Che... Questo è un bidone. Si presta di più alle modifiche, prende un bel splatter, però è sempre una segnala radio, io ne ho tre di quelli e non li do neanche uno, puoi immaginare, vanno bene. Adesso me l'ho tolto l'eco, Tino, com'è, meglio dell'altra? Ma io la preferisco, poi vabbè, si può amplificare ancora di più, volendo. Capa di sì, volendo sì, lo posso ancora aumentare, capito? Ora! Guarda, io la mia prima stazione è stata quella radio con un MB più 5, il BVC 121 e la Mantova 1. Solo che in città giustamente prendevo un sacco di splatter, però andava forte, andava bene. E accoppiata con il più 5 mi piaceva. Ma come modulazione va bene, questo è il microfono suo originale, non è preamplificato, è modificata la radio, capito? Così gli posso dare l'eco, guarda. Ora cambio. Già va bene, massima idea. Sì, già sta andando bene, là. Sì, meglio di quel Cobra, forse è venuto su Cobra, lui. È solo bello esteticamente, non si presta per nessuna modifica, anche se ci hanno provato, ma esce un po' così, là. Ciao Gianni, anche a te, buonasera. Ciao Massimiliano, non ti avevo sentito il telefono che mi hanno chiamato. Allora, come va? Tutto bene? Già, li ho sentiti, là. Sono salito qua e ho acceso così per vedere se era tutto a posto e sono entrato a salutare. Là. Stai preparando per il 45? Sono così più pronto, il 45. Già va bene, dai, l'estate poi ci si diverte, c'è propagazione, e lì la legge del più forte, che più forte arriva, che basso lo schiaccia. Vabbè, io legge non ho, io ti amo, se mi rispondono buono, se no, si rabbiglia. No, volevo dire a Franco, fra quel 48 c'ho una bella radio, se riuscivi a allungarli appena appena quella cosa dell'eco, perché è troppo corta. Bisogna aprirla, rivelarlo, tutto lì. Vabbè, questa è la radio di gomma, questa sto usando adesso. Di gomma? Sì, vabbè, questo è il K, dai. Va bene. Ok, vai ti. Non mi fate mettere baracchini in moto, che non ne ho voglia. Se no tolgo, mi sembra che ho un baracchino, sono attaccato al canale dell'Intec, vecchio, che non ne ho più. Poi ho uno Zodiac vecchio, che è più vecchio dell'altro. Un SSB, no, uno Seat, sono concigliato con lui. Tipo in legno, dai. C'ho fuori pure. Poi, vabbè, un altro 6 o 7 buttati qua dentro, voglio pure ricollegarli. Va bene, dai, ne approfitto e vi saluto. Ciao Tino, ciao Massimiliano, ciao anche a Gianni e tutti gli eventuali del suo più buono, stanno a prendere commissioni. Se coincide a più tardi, ciao a tutti. Ehi, ciao ciao, ci sentiamo fra. Anche io chiudo, dai, che vado a portare il pane. Ciao Tino, ciao anche a Massimiliano. E niente, anche eventuali ascoltoni, dai. Buona serata a tutti. Va bene, ciao Franco, ciao Gianni. Adesso che molti vuoi di portare il cane? Voraccio già, te l'ho corto, voi. Aspetta che saluto a Gianni, saluto a Franco. Buona serata e buona continuazione, no? Ciao, ciao. Cava, cava. Va bene, va bene. No, io già mi ho venduto tutto, mi sono rimasto questo e un altro paio, ne ho sempre roba modificata per il buco. Già va bene, tanto per quello che c'è Massimiliano. Ma io proprio modificato proprio ne ho un paio di 48, uno ce l'ho collegato al camper, l'altro ce l'ho buttato qua, l'altro in una scatola. L'HR5005 ho visto che va molto bene stesso con il più 5, anche quello modificato, un po' di radio più che altro, di watt. Sì, sì, va bene, va bene. A me va bene così. Tanto mi, giusto qualche giro così a 45, adesso va bene, c'ho quel tornato, se riesco quello lì me la faccio fuori e mi tengo questo qua e un altro e basta, tanto non mi vuoto nulla. No, non sto entrando quasi niente, quindi non so, me ne vuoto. Quello cos'è il magnum? Cos'è? Questo qui sì, questo è il magnum. Quello è un ovale, che è bello. A me piace anche come presenta quella variolina. Io, vabbè, non mi interessa cercarlo perché sinceramente se lo fanno pagare troppo e per quello ti faccio vedere il radio che prendo e mi dici cazzo fai bene, secondo me. Poi vabbè, giustamente l'appassionato c'è. E vabbè, io questo non l'ho comprato, io questo ho fatto uno scambio e tanti anni fa con Giampaolo Silvestro, me l'ha dato il chiuso dentro la scatola, io gli ho dato un Galaxy, capito? Me l'ha dato originale, però poi l'ho fatto modificare, capito? No, vabbè, non ne vale più la pena spendere tanti soldi. Lui lascia perdere. Giusto, mi se vuoi far ascolto in altre cose, allora va bene, allora ti organizzi, però così, per la 27 non c'è il tanto. No, se vuoi fare ascolto dagli altre parti, hai visto quelle radioline che ci danno 50 euro, poi gli attacchi da terra esterna, va bene, invece Vittorino va benissimo. E allora, e quindi quanto ne avete voi ancora? Io penso che ci vorrà ancora un anno e mezzo, almeno. Ah, buono, vai, buono. Provate che ce ne sia. Adesso in che zona siete? Oh, io adesso sono verso Ardala, non ci sono più a Uschi. Insomma, anche Ardala non è vicinissimo, quello dai. E io, vabbè, viaggiamo con i furgoni dell'azienda, quindi meno male, io arrivo lì a Bricossarda, lascio la macchina e vado col furgone. E rientro a che ora è la sera? Rientro, noi partiamo alle 4:30, da lì alle 5:15 siamo qua. Allora, se è compresa anche l'ora di viaggio va bene. No, l'ora di viaggio non è compresa, sono compresa l'ora di lavoro. Vabbè, allora per te presto la mattina? Noi facciamo 7:30, 4:30, però la mattina partiamo alle 6. Ah, ecco perché, infatti ho detto 4:30, quindi già mezz'ora di viaggio ti trattavi che cavicchiando, ma invece sei partito presto la mattina. Tutto lo puoi avere, noi facciamo quegli orari lì, capito? No, vabbè, poi c'è anche un bel lavoro su Vicenza, ci abbiamo. Dove? A Vicenza. Adesso più fuori casa, Non so, ero già prima, è un travaglio, vuoi vedere sempre sotto la Ianna? Vediamo, dai. Vediamo se ti farò una proposta, se ti interessa. Se va in porto però. Per quanto ne hai lì a Vicenza? No, io già non ci devo andare. No. Ah. No, è l'ultima spiaggia. Ho capito. allora vediamo, senza promesso, senza niente, però a me è vicino, è a sorso. È di lusso. Tanto adesso io sono con Mini anche, capito? Sì, sì, sì. E io, noi, vabbè, abbiamo mezzi piccoli, se ci portiamo quei lavori lì, perché giustamente non è che... Il più grande che è il 90, figurati, qui abbiamo 60, il 35 e 2,18. Cava, cava, no, io sto usando un 50, è bellino, Caterpillar nuovo, bello, l'unica cosa devono caricare l'aria condizionata, però è bello. Poi io sto usando 60, tutto aperto oggi, ma che cazzo, l'aria condizionata, me l'ho lasciato venerdì scorso con l'aria condizionata perché c'era polvere, mi sono chiuso, sono a mal di gola, e voi, a cagare, sono l'aria condizionata pure. Vabbè, questione anche di abitudine, la verità, sì, l'aria condizionata la puoi usare, se ti abboni la macchina, vai fuzza, la usi come la devi usare, finettino leggermente aperto, io la uso così, capito? E così non prendo polvere, tiene pulita la macchina dentro, tutte queste cose. Lo so, infatti oggi l'ho utilizzata così perché con la cosa è fatto in quei giorni lì, proprio la macchina era, quindi è andata bene. Beh, diciamo che non sta facendo neanche così caldissimo, però d'estate dentro lì ti cucina se non c'è l'aria condizionata. Sì, lo so. Vabbè, vediamo un pochino, dai. Cava, cava, anda bene, anda bene. Ma guardati, io la radio l'ho provata, già va bene, anzi no, spengo questo un attimino e accendo l'altro, vediamo se funziona. Vai, vai, prova, prova, siamo qua. Tanto c'ho un Rix anche l'altro. Allora, questo qua è l'altro, uscendo so. La cosa è tutto. Non è bella questa. Sotto, un microfono normale, senza amplificazione, non è bassa. Aspetta, è così? È così, un po' è migliorato. C'era la rotellina chiusa, questo non c'ha mickey, questo è quegli airbags, quelli 80, tipo il Colt, quello nero. È migliorato come radio, è migliorato, è più forte l'altra, eh? Vabbè, l'altra è un altro mondo, però secondo me anche il microfono questo che non è che serva più di tanto. No, Massimiliano, non dispiace, attenzione, non è che è bella, chiara, amplificata, però a differenza di quella che stavo utilizzando poc'anzi, c'è un abisso. Lo so, eppure questo è col doppio, c'ha tutto, dalla fabbrica, non è che questa usciva così, capito? Sei anche più basso il segnale. Anche un'altra antenna questa, attenzione, questo è una cosa a parte. Ah, ecco, qua c'è Santiago 9, l'aereo 915. Questa è l'antenna, è la stella, è quasi 2 metri più bassa dell'altra, c'ha minimo solo 15 watt in meno. E Gabriuccio, più sentito l'hai? No, non ho più sentito. Anche te l'ho detto, non ho più acceso, capito? Anch'io, non posso senza sentirlo. Sono ordinato con l'antenna, ma mi sa che non ha mai piazzata. E che antenna si è ordinato perché? No, una autocostruita, no. Non si è venuta essa antenna. Io addirittura ne ho fatto fare due una volta. Una era addirittura anche mezzo. Era attaccata all'interno, poi non funzionava. E questa che l'ho provata, ma niente a che vedere con la mantova. Come si chiama? La lampadina? No, ok, che si chiama? L'ho costruita. Ma non si è valuta, chissà. Adesso ho cambiato di nuovo. Infatti. Non serve, la Game Master, autocostruita, non la SABG, 40 euro di marasuzzi, ma cosa, non avrei comprato una intera a casa. Vabbè, ognuno ha le sue cose, io, a me non piace come tipo di antenna, però c'è gente che la mette per problemi di spazio, di radiali e tutte queste cose qua, io lo spazio c'è, preferisco sempre un'antenna così in alluminio. Cioè, perlomeno mi piacciono di più, eh. Sì, ma io ho fatto la prova di una dell'altra, con la stessa radio, c'erano 20 dB di differenza. differenza. Se poi non ha massa variante ancora bici. Lui poi è in un punto un po' strano, capito? Perché lui è molto in basso. Che vuoi dire? Ma vabbè, va, lei si aggiusterà, se no si prende una di quella, aspetta come si chiama, quelle che hanno 20 cm radiali, quella verma, una cosa del genere, costa una quarantina di euro. Ma lui chi? Che stai dicendo? Gaviruccio mi ha detto. Gaviruccio sì, è un punto in basso, ma non so neanche se sarà piazzata una di quelle. No, io sono andato lì a casa sua a mettermi a posto un po' l'impianto. Mi aveva messo un effetto buttata, tutta storta, quella che c'aveva, gli aveva regalata motrice. Ma che radio ha? Sì, c'aveva un Tornado, c'aveva un 48 modificato da Tonio Mister Bambolo. No, radio già ne ha. E che deve lavorare un po' con l'accordatore, sennò vale stazionare a 3.000. Allora, poi se anche fatta bene, tanto vale. Ma andare a Massimilia, dai, anche io devo uscire adesso, che mi stanno chiamando. Nel caso ci sentiamo, fate sentire ogni tanto, già siamo qua. Ciao, divertitela. Ehi, ciao ti, ci sentiamo là. Ehi, ogni tanto quando capita già entro là, mi troverai più 45 magari, che adesso c'è un po' di preparazione, capito? Andiamo, dai, buona serata, un abbraccio, ci sentiamo. Salutami tutta la greffa, ciao ciao. Ehi, va bene, sarà fatto, ciao ciao.